l'altra una, là. E allora, un tappeto, è una modulazione normale, io sto cercando un apparecchio che riceva bene in realtà, a chi sono omologato di base, ho omologato per lo voglio, lo sai perché? Perché qua devono venire a controllare e non si sa mai. Riceve così male, mamma mia. Questo Goldat c'ho 4008 che è una scatola ai fiammiferi, però Gesù Cristo mio. Ehi, tre led mi accendo. E vuoi che te dica? Vabbè, cosa puoi dire? Io già lo sai che non li posso usare quelli là che ho, se no già ce li ho io, ho due Magnum, ho 120 canali vecchio, tutti con le bande laterali, un President Lincoln, ho... Però visto non li puoi trattare, cosa vuoi fare? Infatti stavo cercando di vendermelo qualcuno per prendermi un omologato serio, da. E già lo conosci quegli apparecchi lì, Galaxy, Samurai, e io non c'ho più nulla. E credo che andava bene. Mi ha avuto anche io l'NS200, ne hanno già uno o due, un eco appunto, però mi sono omologato, ma cosa? Non li puoi mettere, cioè ho messo una colonna esterna che dice va bene, ma tu non li puoi cambiare neanche la colonnina interna che è piccola piccola in questo apparecchio e non riceve bene. Sì che ce l'ha, lo sto usando così, però ho una di quelle colonnine piccole piccole, non serve a niente, devo buscare una più grande, dai. E così mi arriva. E ti fidati, tu pensa, le cucine di quel carcere lì le ha fatte un amico mio. E allora è agrumi in Tauraccio, no è letto, no è Tauraccio. Sì, che fa? Perché per tutte queste cose vanno a televisione e non hanno poco delle cose. Sì, è una villeggiatura al carcere. Ehi, già lo so. E poi lo sai che le guardie non possono girare armate dentro? Sono tutti disarmati. Solo quelli all'esterno sono armati. È questione di sicurezza, e tutti sono. Mi pare che pone dentro, li guardi, cazzo, che ne hai mai. Sì, vabbè. E lì era vero, San Sebastiano era vero come c'è cazzo. Non è certo come quello di Bancali, no? Però scusate, le 5 stelle San Sebastiano, vuol dire che è un cazzo veramente. Sì, infatti, o se non si vuoi andare in America, se non li vedi i cazzi, ma se vedi come trattano la gente, la polizia, alla minima cosa, ti si chiude nei tre, il grongo gli ha veridato. E paghi su io gli hanno fatto la busta. Per quello lì proprio, perché io non mi sento rappresentato da questa gente, tutti delinquenti, corrotti, mai io. Sì, ma già lo so, adesso siamo ancora più messi male perché ci hanno tolto la padronanza di Vignano, la padronanza di Rubopolo, perché il popolo che è sovrano, ci hanno tolto la sovranità di tutto. Ma lo sai che noi non comandiamo più nulla e fanno il cazzo che vogliono loro? Giusto si sente? Infatti, l'hanno lamentato tutti i immaginati. Se non ce ne andiamo dall'Europa e dall'Euro, non riusciamo mai. Bisogna andarsene dall'Europa. Già, infatti, ci sono gli stessi, no? Anche i migranti. Già era andato in Europa un mese. Ah, non mi volete aiutare? Beh, da domani in Europa non ci siamo più. Noi in Europa e non vogliamo neanche l'euro. E neanche l'Inghilterra ce l'aveva l'euro. Ce l'aveva l'euro e la sterlina. Capito? Ce li aveva tutte e due. Però la sterlina sempre a chi si prende. Quindi adesso se ne sono andati. Se se ne va l'Italia salta l'Europa, lo sai? Solo se se ne va l'Italia spacca l'Europa del tutto e salta sì, già si danno arricchiti poco, già si danno ingrassato poco, rupuru che c'è niente venendo a noi. Ma lo sai tutti gli dinari che siamo pagati noi paghisti bastardi? Da voi arrivi i catarini, i migranti ti dicono di arrangiarsi. Eh no, io me ne vado dall'Europa. Però ci vuole un politico che sia politico veramente, che gli dica andare a fanculo all'Europa. E non solo, no, il vecchio ex generale dei carabinieri, che ne ha detto di tutti i colori, ne ha detto. Si chiama il generale, come si chiama? Ah, il generale Pappalardo, guarda su YouTube e cerca generale Pappalardo. E da poi mi dà la rifugia a Fabrizio. E una bella passata di fascismo per la voluta. Perché noi della libertà che abbiamo avuto ne abbiamo abusato, ci abbiamo mangiato anche quello che non avevamo. Ma tu a quando hai avuto a Fabri? Dì la verità, è vero. E sarebbe il meno peggio, cazzo, sono tutti così. Ma caputti, la Meloni. E carico movimento, cazzo, di più, Fabri, perché io se no non ci vado a votare. Ma i 5 Stelle non sono il meno peggio, no? Hanno idee losche, ma losche. Guardati bene cosa ti dice Pappalardo dei 5 Stelle, non sono il meno peggio. Ma stanno imparando i valsi, in Parlamento stanno imparando i valsi, qualcuno se ne è fuggito quando Pappalardo mi ha prima mi dice qua viene invasione, però da poi si dice così, va una cosa, no? Questi qui sono dei bravi ragazzi, però gli altri non vogliono, sono degli squali, non vogliono solo che a loro, li fanno come hanno fatto a Berlusconi. Ma poi il bello, ma lo sai cos'è? Che questo governo che c'era non era legittimato, sono tutti abusivi, vulnerabili, per altro tradimento, per tutte le cose che ne fa. Per usurpazione di potere politico, articolo 193. Altrettanto Fabri, alle prossime là, rimango in ascolto, io se tra qualche secondo no, me ne vo anche io dopo. Chi è avanti? Qualcuno su 10? Ebbene, gente mala. Ebbene, non ci siete? Chi è? Avanti. Ah, andata lì, ma tu sì. Eia, perché si vede? Già si vede. Aspetta che tengo il PMR. Mi stavo per trasferire là, questo è il numero 21. Qui mi stavo per trasferire, che c'è Graziano, ma così abbiamo una resana. Intanto sono un rischio, vale. Zanca, stavo ascoltando anche io lì. Io se non c'è nessuno qua già passo là, problemi non lascio. Per cui, tanto il discorso è quello. Parlare se ne vedono. Sì, infatti, qua non sta più entrando nessuno, boh. Io sono appena salito adesso, ero tutta la sera al computer così, guardando un po' di tutto. Per cui, ma mi sto divertendo anche col computer, per me va bene insomma lo stesso, guarda. Non c'è nessuno al baracchino, che se ne frega, al computer e mi diverto lo stesso. Sì, vabbè, anche io ero al computer qua, vabbè niente, un giambano la situazione, se la gente non entra pazienza, nessuno è obbligato ad entrare se non ne ha voglia, per cui non ho problemi. Adesso che più bene di buonacchino, così, finito il bisogno, te, anche il microfono, te, una bella carezza, microfono. Vai! Lì è entrato Marco, ciao Marco, buonasera, ben entrato. Allora me ne vado io, se è entrato Marco me ne vado io, ciao Marco. Sì, addirittura. No, sono entrato a salutare un attimino, ne abbiamo ripreso con Giulio assieme. Io non sto entrando perché francamente la sera mi sto guardando Bonolis con quel programma suo, che è troppo divertente. Claudio non credo che stia entrando tanto perché c'ha questa storia della casa da vendere, deve farla vedere alle persone, c'ha vari appuntamenti, capito? È un po' indaffarato. Che a lui interessa, per cui ormai è in ballo e deve ballare. Meglio così, io gli auguro che riesca a concretizzare il suo volere, per cui la radio già c'è tempo per la radio, non è un problema quello, Marco. Sì, c'è anche Natalino, appunto. No, perché è un po' cazzo, ho fatto chiamata, non c'era nessuno, stasera più presto sono salito, non ho fatto nessuna chiamata, ma ho acceso a ascoltare, non c'era nessuno, ho fatto bene, stavo per passare dall'altra parte, in quella del PNR. Ho sentito Pomponio, ma adesso è deserto, come mai? Tutto un tratto sento che è deserto, almeno qua. Pomponio sempre in PMR entra, non al baracchino. E cosa volevo dirvi? Ma di quelle notizie, avete visto quella ragazza fatta a pezzi, messa nelle valigie? Hanno beccato questo nigeriano, tanto per cambiare, e gli hanno trovato i vestiti sporchi di sangue a casa sua. Eh? Natalino, tu, a te che sono simpatici, cosa li faresti a questo nigeriano? Mi manda di Barenti e la viuda di Buru la medaglia d'oro di Barenti. No, io l'avevo fatta a pezzi e la buona la buona frittati, ossia non sa mai, ossia che essendo sono tagliata a pezzi come ha fatto lui a quella ragazza, lo stavo leggendo al giornale, sul giornale, dai, però al computer che avevo, Marco. Bel delinquente, bel coraggio, barbaro quello lì, disgraziato, non è possibile. Ma perché non le ammazzano tutti questi extracomunitari che sono venuti? Speriamo che vinca, almeno per quello, guarda, sarei contento se vincesse Salvini, almeno per quello, se è vero che butta fuori tutti sarei contentissimo che entrasse al comando Salvini, almeno solo per quello, poi per il resto non me ne frega niente. Ehi, mi sa che voto Salvini. Ah, votiamo tutti Salvini, sperando che vinca. Ehi, Natali, bisognerebbe, poi i motivi non si sanno i motivi, lui nega tutto, ma uno cosa può ipotizzare? O ha tentato di violentarla, quella non c'è stata, allora l'ha uccisa per farla sparire, l'ha messa. Ma poi guarda il coraggio barbaro di fare a pezzi una persona, un essere umano, è una cosa che fa venire volta a stomaco, solo i nigeriani, ai nigeriani gli può venire in mente, oppure a qualche italiano macco. No, questi sono selvaggi, sono la peggior feccia che c'è in Africa, non hanno mai lavorato in vita loro e vivono di delinquere e basta. Sì, questa gente è così, anche a Sassari ne hanno arrestato due perché li hanno trovati spacciando e dunque a casa li hanno trovato della refurtiva, cocaina mi sembra, o cosa del genere, insomma l'hanno arrestato, due nigeriani lo stesso. Ti ho detto, questa gente qua vuole presa e ammazzata, però in Italia non si può, abbiamo il Papa in Italia, capite, per quello non è possibile fare certe cose, sarebbe un sacrilegio. Ammazzano, fai come si fanno i porcetti e gli agnelli, poveri agnelli e poveri porcetti. Marco. Eia, mamma mia. Poi ogni tanto ho visto notizie strane di quello morto in un festino a base di alcol di droga, che l'hanno seviziato, ammazzato per divertimento, per carità. Ogni tanto, ogni giorno se ne sentono, anche di italiani però, che ammazzano moglie, figli, di tutto si sente. La gente è matta, sta diventando sempre più matta. Io avrei fatto la legge, occhio per occhio, dente per dente. Tu cosa hai fatto? Hai ammazzato? E ora ti butti a pezzi prima e poi ti ammazzo alla fine. Ma, nel senso che avrei iniziato dalle unghie, dai piedi. Oggi di giorno ne avrei tagliato un pezzo di vitto, più su e così via. Finché arrivare agli organi vitali, che poi in quel caso lì sarebbe morto senz'altro. e io li avrei fatti prima soffrire e poi li avrei ammazzati, Marco, perché quelle gentaglia, quelle sono peggio delle belve. Non mi ricordo in quale cultura ci fosse la legge del taglione, che sarebbe occhio per occhio, dente per dente, forse nel codice di Hammurabi, se non sbaglio. Cioè, tu cavavi l'occhio a una persona, allora che ti sia cavato un occhio, oppure tu uccidevi una persona a coltellate, allora che tu venga ucciso a coltellate, capito? La cosa più giusta. In Arabia è quello, nei paesi musulmani, tu se perdi il portafoglio parti, lo distruggi, a chi ti lo devi regali la mano della curata? In Arabia lo ci pensano due volte, Marco, tu pensi che ammazzano una donna se vanno col volto scoperto, figurati un poco, se fanno una cosa del genere, già ti salvi, sa, le lapidano, facile prendo. Appunto, se fanno un posto, si mettono per terra, Marco, e ti fanno prendere il sole. Sono la testa fuori dal terreno, non è tutto sotterrato che non ti puoi muovere. Così devono fare allora. Io sto parlando del codice di Hammurabi, quindi roba di 5.000 anni fa, o 3.000 o 5.000, non mi ricordo quanto era vecchio. E lì erano più per le spicce, capito? L'altro giorno, no? Hanno fatto uscire questo zingaro, no? Che tempo prima aveva ucciso, magari o volontariamente o involontariamente, però mi pare che ci fosse il dolo, aveva ucciso uno con la macchina, no? Si era sbattuto la macchina, non so, aveva ammazzato il padre di un uomo. Beh, dopo 4 anni gli avevano dato roba di, non mi ricordo quanto gli avevano dato, 10 più anni, dopo 4 anni è fuori, lo sai. E il figlio di questo ha detto, ma allora mio padre non vale niente per la giustizia. È incredibile, lo sai che è così. E perché qua cosa fanno? Ammazzano le persone, ti fanno fare una piccola pena, non una grossa pena, una piccola pena, qualche annetto così, e ti buttano fuori, e ti mettono anche i contributi quando sei dentro. E cui, vedi bene che l'Italia, perché vengono tutti qua e fanno tutti questi delitti, eccetera, eccetera? Proprio perché si sa che non c'è pena proprio severa. Non è possibile, ma comunque, quello vuoi dire? La pace sia con voi, ragazzi. Riprendi. La legge americana ci vuole, che gli danno gli anni di carte come se fossero caramelle. Per la prima cosa 60 anni, 70. E ti rifai. E senza contare che in certi stati c'è o la camera a gas o l'iniezione letale. La sedia elettrica mi pare che non sia più usata, però la camera a gas è altrettanto brutta. Praticamente tu sei bloccato su una sedia e da sotto salgono, vengono vaporizzati dei gas di cianuro. Figurati tu. La sedia elettrica adesso la danno quando hanno prurito per grattarli. Ma è giusto che sia così, ma quando mai, ragazzi, perché uno deve fare del male alle persone, né alle persone agli animali si devono fare queste cose, ma scherzando, no, non è possibile. Te lo sto dicendo, qui noi abbiamo il Papa, non possiamo nemmeno parlarne, perché se tu ti sentono parlare, ti dicono che sei un ebreo, capito? Se sei un malvagio, no, non è possibile, guarda, non se ne può parlare nemmeno, per cui è meglio, vabbè, a baracchino ne parliamo, così facciamo due battute più che altro spiritose, però in realtà non se ne può nemmeno parlare. Vabbè, ma già ne parliamo spesso di queste cose. Bene, sento che ha ripreso il canale PMR. Che ore sono? Vediamo, io quasi quasi, mi piace Natalino, ma mi sta piacendo questo programma di Bonoli, si inizia adesso, è troppo divertente, lui è molto acculturato, fa battute sopraffine, ma è un prendi in giro anche, in senso buono. È troppo divertente, guarda. Registrato il break, sì, però sconfina anche nella maleducazione, molto spesso, soprattutto con gli anziani e soprattutto con quelle persone un po' disabili, che lui li prende in giro, notano bene. Sì, indubbiamente lui ha una cultura straordinaria, non ci sono dubbi, saprà anche presentare il programma, però a me non mi piace, la verità, nel modo come si comporta, perché prende in giro le persone, e poi sempre a voci, un mancante, no, non fa per me, non è un presentatore che fa per me. Avanti Gianni. Io stavo per la nazionale, io dico la verità. Mi piacevano pure i tipi che sono entrati dei Borussia. Ma io preferisco molto Gianni Scutti. Me ne immaginavo. Bonuris, ripeto, è bravo, perché è bravo, però è maleducato, per me è maleducato, anche se lui lo fa in maniera spiritosa, poi ci sono quelle persone che vengono prese in giro da lui in un certo modo, magari un po' filosofo, e allo stesso tempo fa ridere, i cretini come lui fa ridere, per conto mio, perché non si possono offendere le persone, per quanto possano essere poco o lucidi di mente, o notalo bene Marco, te ne renderai conto. Sì, sì, quando arrivano certi soggetti, ma soggetti a vero me, un po' li pila in giro, vabbè. No, a me Gerry Scotti non piace, Gerry Scotti, come lo dico io a mamma, è proprio da pensionati, è l'ultima spiaggia Gerry Scotti. È anche troppo politically correct, anche troppo, è anche palloso lui Gerry Scotti, non... Mi addormento con Gerry Scotti, capito? Certo, qualcuno si potrebbe anche offendere me di quelli un po' soggetti che vanno lì alla trasmissione, che li chiamano vicino alla dove è seduto lui, si potrebbero offendere, ma vedo che se la ridono anche loro, ma meglio così. Se si offendono gli rispondono a tono, a Bonolis. Pensa che io me lo ricordavo nell'80 o giù di lì, 80-81, che presentava Bim Bum Bam, era un programma per bambini dove presentavano i cartoni animati, tutti i cartoni animati che dovevano andare in onda, capito? E già ne è passato di tempo da allora. Signori, io scappo, dai, vado a vedermelo. Aspetta, ti faccio notare allora, siccome quel programma lo fa anche Gerry Scutti, lo ha fatto anche Gerry Scutti, quando lo ha fatto Gerry Scutti, la percentuale di share era più alta di quando lo trasmetteva, di quando lo faceva Bonolis, sappi questo, no? Per dirti la differenza fra Gerry Scutti e Bonolis, perché Gerry Scutti è un signore, una grandissima persona, è educatissimo, non è come lui per me è un grandissimo maleducato, sarà, ripeto, anche bravo come presentatore, a chi piace, a me non mi piace, perché io lo considero un grande maleducato. E te lo ripeto, Gerry Scotti ha più successo proprio in quella trasmissione lì, che è sua tra l'altro, che è di Bonolis, perché l'ha inventata lui. Gerry Scotti ha più share di Bonolis, lo sappi questo, Marco, per cui vedi bene che sono questioni naturalmente dei gusti, però la gente preferisce più Gerry Scotti che lui, proprio in quella trasmissione che è sua addirittura. Gerry Scotti è anche molto più sensibile come persona. Gerry Scotti è un grande signore, una persona educatissima, come lei è un grande capone, e se lo dovessi incontrare un giorno qui a Sassari, sarei anche contento di dirglielo in faccia, perché lui, ripeto, può essere anche bravo, a chi piace, però per me è un grande maleducato, io lo penso così. Vai già. Sì, è bravo, che fa delle battute che fa rimanere male, dai. Se lo spazio in faccia tutto così le cose. Pensa Giulio, che invece quando lo conduce Gerry Scotti, mamma non le guarda, e nemmeno l'amica di mamma, perché Gerry Scotti è palloso, non... Sì, troppo serio anche, troppo serio. No. Io ti dico solo che ascoltavo lo Zoo di 105 e detto tutto, in confronto. pronto un santo Bonolis, dai che vado, dai, ci sentiamo, Natali, mi dispiace se sto andando via, ma dai, perché tanto al baracchino, certe volte non ho voglia, sono 2 giorni che sono a letto, sono in pigiama, non sono uscito niente e purtroppo ne soffro, vorrei uscire di più, però Sassari non offre niente, cosa vai, sempre sulla Platamona, no? Per carità, a trovare quella maggiera. Ignorano la tua madre che nei giorni scorsi ha portato lì per di Burone, si portò lì con la trasmissione che il suo ha trovato, faglielo notare a tua madre, poi il fatto che non piace al mio altro discorso, però ogni italiano frequenta i giorni scorsi proprio nella trasmissione sua personale. Perché Bonolis l'ha fatta quella trasmissione, l'ha inventata lui e se l'ha venduta lui alla Mediaset o quella cinese si chiama. E Gerry Scotti è preferito dagli italiani di molto, anche non di poco, anche di molto. Per cui, vabbè, dai, Natalie, ci sei sempre. Natalie, Radio Zero, sì, mi hai detto una cosa, avete ripreso assieme a Giulio, mi hai detto te lo racconterò di persona, parla più vicino al mic. Te lo racconterò di persona quando ci vediamo, quello che mi è successo in questi 2 giorni, roba da non credere. E vabbè, non ti preoccupare, capito, ma me ne sono successi. Ieri me ne cadono, per esempio, gli occhiali in terra e mi si sono spaccati, sono dovuto andare a montatura al mondo. Vabbè, poi me lo racconti verticale. Va bene, buonasera a tutti, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco, buona cena, dai. Buon divertimento, se ti piace, buon lunch. Vai già. Ciao, che ti è simpatico, non è che sia, però hai ragione tu, a volte scantona. Natalino, buonasera. È così, usci da di sì. Tengo le grosse e mi sono cadute in testa. No, vero. E vabbè, non è il caso di parlarne qua, là. Ciao. Sentiamo che me ne vado a cena, il culco, il tuo capito. Sì, vabbè, dai. Dopo la tempesta verrà anche un mare buono, là. Come sono tutte le cose, mi sono male con le buone. Non va di... Ok, ciao Natalia, allora se stai chiudendo. Ci sentiamo, d'accordo. Cosa vuoi che ti dica? Vuol dire un periodo sfortunato per te in questo momento. Verranno tempi migliori per tutti, come vengono brutti, vengono anche belli, un po' per tutti. È così, la vita purtroppo è così. Vero già. Ci va avanti. Non bisogna mai lasciarsi andare, bisogna sempre lottare e continuare ad andare avanti nel miglior modo possibile, anche perché la gente ci vuole, con più servizio ci vuole, quindi si riesce sempre con il sorriso e andare avanti. E beh certo, solo poi che ci sono quelle persone un pochino stupide che si godono loro quando vedono una persona che o perché non è molto simpatica o per altri motivi e si godono loro vedendo quella persona che soffre, cos'è dell'altro mondo, lui, quanto è cattiva l'umanità tante volte, la maggior parte delle volte l'umanità è veramente cattiva, ma veramente cattiva, non è possibile. Non si sa più di chi ti puoi fidare, per carità, non è possibile. Guarda. Ma oggi ho visto, appunto, stavo guardando questa storia di queste due sorelle. Praticamente una è stata con questo uomo, poi si è mollata e la sorella si è stata sposata con lui. Diceva che gli aveva fregato l'uomo e poi ha raccontato tutta la storia, i genitori erano sì, diciamo che l'ho seguita, seguito così, sommariamente l'ho seguito anche io, perché io lo guardo tutti i giorni, mi è considerato che qui l'accende mia moglie quella, su quel canale lì, e dunque dopo pranzo mi siedo alla poltrona e la televisione accesa e vedo anch'io quelle trasmissioni lì, ma ce ne sono tutti i santissimi giorni. Figli che portano i genitori lì in tribunale perché hanno delle pretese assurde, uno che ha 40-50 anni ancora si vuole mantenuto dai genitori magari che sono anche pensionati, ma non è possibile, guarda, sono, guarda, delle cose orrende se si sentono in questa vita. Quella, sì, quella di oggi è stata ospitata perché lì quando è morto marito non sapeva più come andare avanti e non aveva mezzi finanziari, se l'ha presa in casa, se l'hanno presa ringraziando gli ha fregato il marito, perché succede così, non si sa. E poi mi verrà a dire l'uomo è traditore, ma l'uomo perché è traditore già? Perché ci sono le donne che sono puttane, se no non può essere traditore l'uomo, non ti sembra che sia così? Sempre in pace, si fa tutto le cose che si fa. Ok, ciao, già, ci sentiamo, ciao.